Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa che dedichiamo ai giornali europei, alle questioni europee qui a Radio 24. Buongiorno da Giulia Crivelli. Cominciamo dalla crisi ucraina che ovviamente ci vedrà superati dalla cronaca. Domani ci sarà, salvo chissà, sconvolgimenti dell'ultima ora, il referendum per l'annessione della Crimea alla Russia, e lunedì dovrebbero arrivare le sanzioni dell'Unione Europea. Però ripeto, uso il condizionale perché è una crisi in corso dove le diplomazie sono al lavoro, compresa quella europea. Ma che cosa stia veramente succedendo in Ucraina? Antonella Scott ce lo racconta con i suoi reportage in quasi tutti i GR, ma è comunque difficile da capire. Vi segnalo allora un articolo apparso sulla Süddeutsche Zeitung, ripreso da Internazionale, che è in edicola da ieri, è di Julian Hans e si intitola Cosa rischia Putin. Vi leggo le prime e le ultime righe per capire anche un po' quale potrebbe essere appunto il ruolo dell'Europa, che finora, a detta di tutti e soprattutto all'inizio della crisi, alla fine di febbraio, è stata veramente titubante, per usare un eufemismo. In questi giorni gli inviti a evitare la linea dura con la Russia di Putin sulla crisi ucraina vengono da due schieramenti diversi. Da un lato c'è chi sostiene che è possibile ottenere di più con la diplomazia e non con le minacce. Dall'altro chi teme le possibili reazioni di Mosca. Di quale speranze, di là i timori. Ma oggi ci sono pochi motivi sia per sperare sia per avere paura. E vi leggo l'ultima parte. Diciamolo dunque per evitare i malintesi. Qui non si tratta di cacciare il presidente russo, ma il prezzo per tutti coloro che cedono alla sua politica aggressiva rischia di salire. L'Europa è più forte, ma tende a nutrire troppe speranze. E vi segnalo una notizia che ho trovato proprio su un'agenzia, su Bloomberg, per aggiungere un aspetto che purtroppo esiste, di cui bisogna tener conto, che è quello finanziario. Ci sarebbero possibili possibilità, secondo Bloomberg, di pressioni da parte dei milionari, dei miliardari, degli oligarchi russi su Putin, perché pensate, dal 28 di febbraio a ieri, praticamente a ieri venerdì, hanno perso qualcosa come 18 miliardi in borsa per via degli scossoni finanziari e della svalutazione del rublo. Quindi in tutto questo scenario c'è poi la componente finanziaria di cui purtroppo dobbiamo tener conto. E sempre per la questione ucraina vi segnalo un articolo della Bild. La Bild è un giornale tedesco, è forse il più diffuso giornale in Europa, deve avere una decina di milioni di lettori, è un giornale anche scandalistico, però molto impegnato sul fronte degli scoop, e quindi potrebbe essere che in effetti la notizia che è stata anticipata ieri e che poi è pubblicata oggi sabato sulla Bild sia effettivamente vera. Secondo questa notizia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti starebbero pensando di proibire l'ingresso sui rispettivi territori di 13 altri responsabili della politica e dell'economia russa per sanzionare il ruolo di Mosca nella crisi ucraina. Secondo questi sanzionati ci sarebbero il ministro della difesa russo, il capo dei servizi segreti, numero uno delle più grandi aziende energetiche pubbliche, cioè Gazprom e Rosneft, e lunedì, che tra l'altro sappiamo appunto lunedì ci sarebbero queste, c'è un vertice fissato a Bruxelles per approvare le possibili sanzioni, e appunto ci sarebbero anche queste sanzioni. Il ministro degli esteri tedesco Martin Schäfer ha detto alla Bild che i colloqui in merito sono ancora in corso, quindi non si possono ancora annunciare i risultati, ma lunedì forse si potrebbe. E sempre sul tema Ucraina, scusate se insisto su questo tema, ma mi sembra veramente una crisi che potenzialmente può sfuggire di mano a tutti, perché nessuno ha davvero capito come se Putin tornerà più miti consigli, visto che addirittura Angela Merkel lo ha praticamente definito fuori controllo, o se invece gli aspetti economici lo porteranno a più miti consigli, o se alla fine l'Unione Europea riuscirà, o forse Obama o il ministro degli esteri americano, che rivedremo. Insomma, comunque il Wall Street Journal per esempio ha intervistato Radoslaw Sikorski, che è il ministro degli esteri polacco, e secondo questo ministro, che sicuramente la Russia la conosce bene per vicinanza, per storia, per cultura, le sanzioni non fermeranno la Russia, perché Vladimir Putin sa che l'Occidente vuole evitare un confronto militare, e per questo motivo, una volta presa la Crimea, la Russia potrebbe puntare su altre regioni nell'est e nel sud dell'Ucraina in cui sono presenti comunità russe, destabilizzando così l'intera regione. Spero che la Crimea non sia solo la fase 1, ha detto Radoslav Sikorski al Wall Street Journal, ma potrebbe esserlo. Sebbene l'Unione Europea sia pronta ad adottare sanzioni, scrive il Wall Street Journal, Varsavia vorrebbe in realtà che Bruxelles adottasse una posizione più dura verso Mosca, senza temerne le ripercussioni economiche. Abbiamo citato brevemente sopra Gazprom, che è questa gigantesca compagnia energetica che ha oleodotti, gasdotti che passano attraverso tutta l'Europa, e ricorderete qualche inverno fa che ruolo ebbe in una crisi energetica. Quindi è vero che c'è anche questo aspetto, l'aspetto appunto del gas, dell'energia. Credo che la sfida in Europa, ha detto sempre Sikorski al Wall Street Journal, consista nel fatto che alcune aziende, alcuni individui sono più dipendenti dai profitti che dalle forniture del gas. Il gas è un prodotto importante, ma essere indipendenti, essere liberi da questa guerra è ancora più importante. A proposito di guerre, questa è una guerra un pochino più leggera, ma di cui ci siamo occupati in passato e sicuramente ci occuperemo anche in futuro, che è un po' una guerra alimentare. Vi ricorderete la polemica del New York Times, che poi fu seguito da tanti altri giornali, sull'olio d'oliva, che l'olio d'oliva extravergine, che viene spacciato magari come made in Italy, venduto ad altissimo prezzo, è un prodotto di lusso in molti paesi, in molti ristoranti, tra cui molti ristoranti americani. Poi magari si scopre che non è proprio fatto tutto secondo le regole dell'olio extravergine d'oliva, addirittura in certi casi può essere quasi velenoso, o comunque sicuramente non vale il prezzo che viene pagato. Si preannuncia, secondo il New York Times e altri giornali europei, anche una guerra del formaggio, e qui è tutta una questione di naming, perché negli Stati Uniti naturalmente si parla di parmesan, che non è il nostro parmigiano reggiano o il grana padano, è qualcosa che gli somiglia. Ecco, secondo il New York Times, per ora l'Unione Europea sta solo discutendo, ma pare chiaro che portare negli Stati Uniti la stessa politica messa in Canada e in America Centrale, cioè vietando questo European sounding di alcune cose, perché naturalmente anche i francesi vogliono dire la loro, o i greci con la feta, sarebbe pericolosa, perché la battaglia dei nomi potrebbe non fermarsi solo al formaggio, potrebbero esserci anche provvedimenti per il prosciutto, le arance, il salame, lo yogurt. Ma insomma, non ci si può, a volte non esistono i sinonimi, quindi sta poi un po' al buon senso delle persone, e forse anche a qualche regola, qualche controllo in più, stabilire se un prodotto che si fregia di un certo nome ha poi la qualità e le caratteristiche di quello prodotto, o magari i consumatori potrebbero leggere l'etichetta e farsi loro un'idea. Non è così, forse, così necessario dover spiegare sempre tutto a tutti, a patto che da qualche parte la trasparenza trovi il suo posto. E veniamo all'Italia, perché qui invece è un articolo di cui si è parlato molto, ne ho sentito parlare anche da Sebastiano Baresioni in Focus Economia, lo cito anch'io perché questa è davvero una vicenda che dovrebbe, insomma, che non dovremmo dimenticare in fretta dopo le solite emergenze, i soliti flash sui giornali. Parlo di Pompei, naturalmente. L'articolo è anche in questo caso della Süddeutsche Zeitung, che è un giornale del sud della Germania, molto serio, non forse così serioso come la Faz, ma sicuramente neanche scandalistico come la Bild, che abbiamo citato prima. E la Süddeutsche Zeitung ha parlato sia di Pompei, di questo scandalo di Pompei che crolla ogni volta che c'è un piccolo temporale, praticamente a Pompei crolla qualcosa, e poi l'ha anche paragonata a quello che è successo all'Aquila con la ricostruzione, che sapete non va avanti, è ferma. Due esempi del malfunzionamento dello Stato italiano. Il titolo il titolo dell'articolo della Deutsche Zeitung, il titolo del Feuilleton, è Vergogna nazionale. Nel sottotitolo, a Pompei crollano i muri, il degrado diventa simbolo del malfunzionamento dell'Aquila. E naturalmente si cerca di ripercorrere un po' quelli che sono stati gli ultimi sforzi, e poi si cercano di individuare anche alcuni dei più recenti responsabili, come il presidente della Regione Lazio Stefano Caldoro, che peraltro però appunto raccoglie l'eredità di una malgestione di tanti tanti decenni, non anni. Comunque, scrive la Süddeutsche Zeitung, sono stati messi a disposizione 2 milioni di euro per Pompei negli ultimi giorni, ricorderete l'annuncio di Franceschini, neo ministro della cultura e dei beni culturali, ma la burocrazia potrebbe complicare la strada degli investimenti, per quanto questa serva a evitare la corruzione. C'è, come potete immaginare, c'è stato, c'è e ci sarà il nostro nuovo premier dappertutto. Ha un po' il ciclone Renzi, ha investito non soltanto i giornalisti italiani, siamo ancora tutti un po' spiazzati, permettetemi di dirvelo, ma spiazzati dal suo modo di comunicare così veloce, ma lo sono anche i giornali stranieri. Le Monde titola Renzi ha fatto un annuncio come fosse un contratto di Berlusconi, Le Monde è un giornale di sinistra, Le Figaro invece ha titolato qualche giorno fa Il tornado Renzi scuote l'Italia e Financial Times si è dedicato invece più alle misure economiche, purtroppo ipotizzando appena ieri che la medicina di Renzi non guarirà l'Italia. Speriamo che Financial Times si sbagli perché Renzi sembra molto deciso e sicuramente di cambiamento si tratta rispetto a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Non ho tempo per altre segnalazioni, anche se ovviamente c'erano tantissimi altri articoli interessanti da segnalarvi. Vi auguro un buon sabato e una buona domenica. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.